I'm Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Up con Nick e Andrea al microfono per le prossime due ore, e manco da un po' di settimane, e questa è una puntata che vuole essere un po' un resoconto di quello che è uscito nel 2018. È chiaro che vuole essere una cosa molto molto molto parziale, però nel mio piccolo voglio farvi ascoltare quello che mi ha entusiasmato in questo anno che volge al termine. E tra le varie cose, cercando di fare meno discorsi possibile, lasciare più spazio alla musica, di quello che, cosa che non facciamo di solito perché ci lasciamo prendere moltissimo dalle chiacchiere, ma prometto che questa sarà invece una puntata dove si ascolterà tantissima musica. Partiamo, come abbiamo già in sottofondo, uno degli album più importanti della storia del rock. È stato rivisto e corretto, e in questo cofanetto sono state aggiunte tantissime cose che erano rimaste nel cassetto, chiaramente, perché insomma tantissime take di canzoni che poi uscirono in versione definitiva sul White Album. E ovviamente sto parlando dei Beatles, se ne parla tantissimo, quindi cercherò di appunto di passare subito alla musica. E un gruppo che è inutile dire è stato importantissimo, e anche per il fatto di avere pubblicato delle cose e aver portato nelle case di tantissimi ascoltatori anche l'avanguardia, come in questo caso. È sicuramente uno dei brani che non passano tanto in radio è questa, Revolution 9, che è il momento più sperimentale, potremmo dire, dei quattro di Liverpool, un brano che poi alla fine dei conti risulta più che altro di proprietà di John Lennon e parzialmente con l'aiuto di George Harrison. Gli altri due non erano stati chiamati in causa. E allora passiamo a questa sorta di Best of 2018, e niente, buon ascolto e buona puntata a tutti da parte di Nicky D'Andrea. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number imbalance. The Watusi. The twist. Eldorado. Take this, brother. May it serve you well. Maybe it's not what? That. What? Oh. Maybe even then, exposure is something that's so difficult to bear. Again, and by exposure, naked. Questa prima parte di Up, dopo il mashup di Revolution 1 con Revolution 9 dalla versione deluxe di The White Album dei Beatles, siamo passati ai Brian Jonestown Massacre con la loro Silent Scream da Something Else, il loro ultimo lavoro, Tim Burton e Matt Mitchell con Not Too Too dal loro Angel Dust, e adesso abbiamo Jens Tofondi e Voivod con I Conspiracy da The Wake, tutti album targati 2018. Buon proseguimento di ascolto con la seconda parte di Up tra pochi minuti. You woke up in my lane, it's on the slide.